La versione di Oscar, di Oscar Giannino. Buon pomeriggio, cari ascoltatori di Radio 24, questo giovedì 21 aprile 2016. Vi dico subito di che cosa parliamo oggi, perché la mia attenzione è stata attirata, e non era la prima volta in questi giorni, dall'apertura della Stampa di oggi di Torino, che ha dedicato a un rapporto stilato dalla Coldiretti, e questo rapporto ha a che fare con una questione importantissima per tutti noi, ovviamente, cioè la sicurezza dei cibi. La sicurezza dei cibi importati, a dirvi la verità. Allora, questa è l'ennesima volta, come capirete nella puntata, che si levano allarmi sul fatto che dall'estero vengano alimentari che non garantiscono gli standard necessari in tutta la filiera della loro coltivazione, raccolta, trasformazione, in quanto nei paesi in cui avvengono i singoli segmenti della coltivazione, raccolta e trasformazione degli alimentari, gli standard non sono sufficientemente elevati, e questo configura un rischio per noi tutti. Allora, qual è la questione di fondo? Primo, capirci bene, per così dire, e in questo ovviamente c'è bisogno di un po' di conoscenza burocratica da una parte, dall'altra scientifica dall'altra, perché gli standard per ogni prodotto sono ovviamente, hanno a che vedere con le sostanze che si usano nella coltivazione, con gli standard che sono da garantire negli ambienti all'aperto e al chiuso, con gli stabilimenti poi di trasformazione e così via. Dall'altra parte ovviamente poi bisogna evitare, almeno a mio giudizio, che in questo caso non mi spaccio per tecnico ma semplicemente la giornalista che fa domande per consentire di riflettere tutti quanti su questi temi, bisogna evitare da una parte di incorrere in inutili allarmismi, perché è chiaro che l'informazione spesso si presta a questo, perché bisogna pur vendere, per così dire, ma stare il più possibile a un'informazione accurata. Dall'altra, almeno per chi la pensa come me, c'è anche poi un altro problema che vedremo nel corso della trasmissione, e cioè quello di, per così dire, evitare di incorrere in un allarmismo eccessivo, per dire autarchia, cioè facciamo tutto da soli, perché gli altri, i prodotti degli altri non vanno bene. Però questo ulteriore problema teniamolo un secondo sullo sfondo, perché vedremo che ha alimentato recentemente una rovente polemica proprio su una filiera, quella del latte. Ma intanto occupiamoci di capire meglio i particolari, almeno alcuni dei particolari di questo report stilato da Coldiretti, che ha portato la Stampa oggi ad aprire in prima pagina con un titolo che dice: ecco la lista nera dei cibi importati. Poi voi aprivate pagina 2 e trovate la lista nera dei prodotti pericolosi dall'estero, frutta e verdura chimica. Quindi l'accusa è quella di un eccesso di prodotti proibiti per tipo di ortaggi, frutta, eccetera eccetera, a seconda dei paesi di provenienza e per tipo di utilizzo di questi alimenti in ciascun segmento della filiera poi della trasformazione alimentare. Allora, per farci capire meglio di che cosa si tratta, abbiamo naturalmente invitato il responsabile qualità di Coldiretti, Rolando Manfredini, che ringrazio di essere con noi collegato. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio agli ascoltatori, grazie. Allora, ci spiega un pochino, con un po' di accuratezza, di che cosa si tratta, da dove prendere mosse questo rapporto, quali sono le basi scientifiche su cui è fatto e di che cosa bisogna preoccuparsi davvero, e soprattutto verso chi e puntate il dito accusatorio, per così dire, cioè sono le autorità italiane, quelle europee, dove avvengono i difetti di controllo secondo voi? Dunque, qui intanto noi abbiamo stilato questa lista di prodotti che provengono quasi tutti, anzi tutti, da paesi terzi dell'Europa, e che si basa questa lista su dei dati che ha prodotto l'autorità europea per la sicurezza alimentare. Quindi i dati che noi riportiamo sono sostanzialmente da ricercare in un documento ufficiale dell'autorità europea e a quello si riferiscono. Che cosa succede? Succede che i vari stati, la stessa autorità europea partecipa a indagini di questo genere su tutto il suolo europeo e ha comunicato esattamente il superamento dei cosiddetti residui massimi ammessi in Europa di sostanze chimiche e di pesticidi in particolare, quindi questo superamento che in alcuni casi, come viene riportato dalla nostra lista, e per taluni alimenti viene superato addirittura come massimo nei broccoli nel 90, oltre il 90% dei casi provenienti dalla Cina e addirittura per arrivare alle arance in Egitto che superano comunque il 5% dei campioni analizzati. E questi residui vengono posti, questo residuo massimo ammesso viene posto a garanzia della sicurezza alimentare, cioè tutti i prodotti che possono avere delle controindicazioni ovviamente dal punto di vista della sicurezza alimentare sono permessi, ma con un residuo massimo ammesso che non deve essere superato per non incorrere problemi con la salute. E questo residuo massimo, tentiamo di spiegarlo a chi è in ascolto, riguarda sostanze che si utilizzano per la coltivazione, pesticidi eccetera eccetera eccetera, che restano con residui sul prodotto in termini percentuali appunto superiori a quelli ammessi in Europa, è così? Esattamente così, e devo anche aggiungere questo fatto qua: non tutte le sostanze che sono state trovate dall'EFSA sono addirittura autorizzate in Europa, quindi vuol dire che l'Europa nella sua formulazione per la sicurezza alimentare ha fatto uno screening in questi anni andando a togliere dall'utilizzo e quindi sulle coltivazioni dall'utilizzo di pesticidi che rappresentavano comunque dei problemi o erano cancerogeni o erano teratogeni oppure avevano comunque delle controindicazioni di carattere ambientale. In particolare uno di questi è stato proprio ritrovato nel prezzemolo che viene dal Vietnam. Questa grosso modo è la situazione. Naturalmente nei tipi di prodotti, se volete approfondire, ci sono diversi esempi sulle pagine iniziali della stampa, oltre ai broccoli che abbiamo citato, c'è il basilico che per il 60% di quello proveniente dall'India sarebbe risultato contaminato da pesticidi in percentuali appunto inammissibili che contravvengono agli standard europei, il prezzemolo abbiamo detto, i melograni dall'Egitto fuori legge nel 33% dei casi, la menta dal Marocco il 15% a residui chimici, i meloni della Repubblica Dominicana il 14% fuori legge e così via, ce n'è diverso, cioè fragole, piselli, peperoncino, cioè, la lista è molto lunga. Ecco, volevo dire un'altra cosa in riferimento al fatto della spiegazione del residuo. Il residuo in questi prodotti risulta dai cosiddette procedure che vengono attuate in campagna per il trattamento delle malattie delle piante, ovvero anche per negli stabilimenti per i trattamenti post raccolta, insomma diciamo deriva da questo l'Italia in modo particolare si è differenziata in questi anni adottando specifici sistemi di cosiddetta lotta integrata o produzione integrata, utilizzando moltissimo il biologico, gli interventi con supporti di carattere biologico. Ecco, la differenza sostanziale esiste tra chi conduce un ciclo di questo genere, che è certamente molto costoso per certi aspetti, e chi invece conduce un ciclo dove ancora si basano i trattamenti sui trattamenti a calendario. Noi utilizziamo le trappole sessuali per ricercare quell'insetto dannoso e quindi intervenire al momento opportuno, dalla parte di là si copre con il pesticida in maniera uniforme per tutto il tempo della coltura. Ecco, questo porta certamente a dei residui elevati, dall'altra parte i residui sono molto bassi, tant'è che appunto l'Italia si posiziona come un residuo, questi stiamo parlando di percentuali due cifre vicino al 100% in alcuni casi, noi siamo 0, Ecco perché, per non appunto destare allarmismo, il 97,4% dei campioni analizzati in un anno in tutta Europa sono in linea con i limiti di legge, caro ascoltatore, quindi il 97,4, ecco, cioè, e l'Italia insieme alla Germania sono in testa, mi corregga se sbaglio, come numero di analisi a campione svolte, quindi insomma facciamo tutto il necessario o no? Controlli da noi sulle nostre produzioni ci sono e sono importanti, addirittura controlli che hanno dei numeri veramente elevati a cui faceva riferimento lei, e l'Italia è di gran lunga quella che ha il numero maggiore, fa il numero maggiore di controlli, ma anche emette secondo il sistema di allerta europeo il numero maggiore di notifiche, quindi cioè, da noi si controlla, e il problema riguarda l'importazione. Ora, questi, cioè, bisognerebbe spostare i controlli sui prodotti all'importazione prima che vadano nella finale della trasformazione in Europa, è questo? A noi ci piacerebbe molto che, siccome noi come cicli produttivi, come le dicevo, ci distinguiamo per avere dei cicli produttivi che sono anche costosi, su cui vengono effettuati quel numero di controlli straordinari per dare garanzia di sicurezza alimentare, altrettanto venga fatto per i prodotti di importazione che hanno procedure diverse e manifestano questo problema. Questi sono segnalati, chiaramente questi, i dati dell'ESSA sono dati a campione, ma segnalano comunque un pericolo da insistere sul fatto di controllare determinati prodotti che sono fuori per il 90%, perché questo è il problema. Allora, io adesso la fermo qua, ma lei rimane con noi perché poi vorrei che reintervenisse. Perché? Perché proprio poche settimane fa Coldiretti ha lanciato, sempre Coldiretti, ha lanciato un allarme attraverso la pubblicazione di un giornale online, l'inchiesta che io invito tutti gli ascoltatori a leggere perché è molto utile, almeno per me che faccio questo mestiere è molto utile, e c'ha un mucchio di notizie, approfondimenti come una vera testata nazionale. Quindi, grazie a Francesco Cancellato che ne è il direttore e a tutti i suoi giovanissimi redattori, perché secondo me fanno da alcuni anni un lavoro eccezionale, anche chi l'ha diretto prima di Francesco. Però detto questo, Coldiretti pubblicò un articolo nel quale si parlava in questo caso della fila del latte e diceva: il nostro latte, sapete che c'è una rovente polemica sui costi bassi, con i prezzi bassissimi riconosciuti agli allevatori italiani rispetto a quelli della filiera e poi al consumo, c'è pendente la lunga coda ancora da anni delle quote europee e così via, e però sempre in materia di sicurezza alimentare Coldiretti diceva: noi mentre siamo strasicuri del nostro latte non sappiamo nulla di un mucchio di latte che magari si importa in Italia, si consuma in Italia, e soprattutto citava quello dell'Est Europa. E sempre l'inchiesta ha pubblicato a quel punto la replica di un imprenditore italiano che è presidente del gruppo lattiero caseario Brazzale, appunto Roberto Brazzale, che disse: no, veramente io avrei qualcosa da dire su questo fatto che nei paesi citati da Coldiretti come non ne sappiamo nulla gli standard non sono buoni. E infatti ho chiamato Roberto Brazzale perché ci racconti la loro esperienza diretta, perché loro operano in Moravia. Buon pomeriggio e grazie di essere con noi, Brazzale. Buon pomeriggio, Giannino. Allora, lei ha scritto un articolo al quale la inviterei ai nostri ascoltatori in sintesi a dire alcune cose. Cioè, è vero che voi operate, siete andati là per avere le mani libere e fare quello che volete in barba alla sicurezza alimentare di chi consuma poi il vostro latte? Questa è una mistificazione che non ha nessun fondamento, semmai rischia di essere vero al contrario. Io ho sentito il dovere nei confronti del consumatore per primo di intervenire quando si è davvero superato ogni limite, nel momento in cui in Italia emergevano dei problemi relativi alla presenza di aflatossine sul mais italiano, che è particolarmente stressato a causa del clima caldo della pianura padana, e può succedere che in alcune stagioni si concentrino, e questo poi passa nei formaggi. Sono nati delle Le aflatossine, ricordiamolo, riguardano, sono una sostanza cancerogena, possono intaccare e riguardare i foraggi di cui si cibano poi gli animali, da cui poi ovviamente il latte. Adesso io vorrei però subito dire, Giannino, che qui è assolutamente da escludere ogni allarmismo. Il livello di controlli è altissimo ovunque in tutta Europa e garantisce il consumatore che non ha mai mangiato nella storia così, in modo così sicuro come oggi. Ma proprio perché il livello di controlli è molto alto, quello che noi non possiamo accettare è che si continui a fare una controspeculazione anzi una speculazione netta nei confronti dei prodotti che provengono dal resto d'Europa. L'Italia è un paese fortemente deficitario, non per cattiveria di qualcuno, ma semplicemente perché ha un territorio ridotto rispetto al numero di abitanti, di conseguenza deve necessariamente importare, a seconda dei settori, dal 20-30 fino al 50% del proprio fabbisogno. Nel caso del latte, resterebbero senza latte prodotti lattiero-caseari 18 milioni di italiani se non ci fosse, grazie a Dio, l'importazione da questi straordinari paesi del centro e nord Europa, soprattutto come Germania, Francia e altri paesi che sono esportatori verso di noi. E anche nel caso di Spagna, però aspetti un secondo, lei spiega nella sua replica, a cui poi è seguita una controreplica da Coldiretti, per questo ho pregato poi Manfredini di restare con noi anche, e ha spiegato che in realtà i controlli in Moravia sono più pervasivi e migliori di quelli italiani. Allora io, dopo un minuto adesso di pausa per l'informazione stradale, le chiedo di spiegarci come e perché, e se sia vero, per esempio, che noi che alleviamo soprattutto nella pianura padana, l'abbiamo letto sui giornali qualche giorno fa, in realtà poi ha degli indici di purtroppo corruzione ambientale, chiamiamola così, superiore alla terra dei fuochi, quindi da questo punto di vista non è che siamo proprio la parte più sana per gli animali che producono latte in tutta Europa. Tra un minuto. La versione di Oscar. Allora, eccoci tornati, cari ascoltatori, in questo giovedì 21 aprile a parlare la prima parte della trasmissione. Avete sentito questo report di Coldiretti ricavato dalle osservazioni dell'Autorità per la Sicurezza Alimentare Europea su questa lista nera di prodotti pericolosi paese per paese di importazione. Si può parlare del Centro Sud America, l'Asia, Nord Africa e così via, percentuali molto elevate, non in regola con gli standard europei per quello che riguarda alcuni prodotti usati nella coltivazione, pesticidi, fungicidi e così via, e quindi sicurezza alimentare compromessa, necessità di più controlli all'importazione alla frontiera europea. E stiamo parlando però anche di una polemica all'interno dell'Europa sollevata sempre da Coldiretti sul latte. Roberto Brazzale, che è presidente dell'omonimo gruppo lattiero caseario che opera in Moravia, stavamo ricordando come sia un po' insorto dicendo: ma di che parlate? Guardate che qui i controlli in Moravia sono migliori di quelli italiani. Sono davvero migliori? Perché? Guardi, vorrei precisare, i controlli sono uniformi in tutta l'Unione Europea e garantiscono in modo assoluto il consumatore. Il punto è che c'è, nel caso delle aflatossine, c'è una differenza climatica che comporta un differente sviluppo di queste tossine, per cui normalmente a nord delle Alpi il problema non sussiste, per cui i risultati sono regolarmente migliori e di controlli che sono più o meno omogenei, sono gli stessi e garantiscono. Devo dirle anche che qui è il caso anche di dirci chiaramente, questo insistere su forme di agricoltura che sono ormai di retroguardia, rifiutare la tecnologia, rifiutare ad esempio le sementi che transgeniche potrebbero aiutare moltissimo nel risolvere questo tipo di problemi l'agricoltura italiana, ma nel contempo essere costretti ad importare quei prodotti, per cui impedire ai nostri allevatori di usare quelle sementi, perché poi comunque gli allevatori debbano comunque acquistarle da paesi terzi come gli Stati Uniti o Sud America, perché altrimenti noi non avremmo alimenti sufficienti per il bestiame. Questa è un'assurdità che continuiamo a tenere in piedi per il fatto probabilmente di una, se me lo lascia dire, di una speculazione che si è tentata piuttosto maldestra, cioè quella di cercare di gettare discredito su certe tecnologie usate nel resto del mondo per poter crearsi una protezione in casa e poter spaventare il consumatore per poi venderli a prezzo più caro del prodotto che magari un certo tipo di tecnologia o di caratteristica non ce l'ha. Questo è, secondo me, mi lasci dire, assolutamente scorretto, non solo nei confronti dei paesi terzi, ma soprattutto nei confronti del consumatore, che a questo punto riceve del prodotto nel quale sono contenuti granaglie e semi transgenici che sono ottimi, di qualità ottima, perché attraverso il bestiame viene alimentato con questi, ma poi per assurdo gli allevatori stessi italiani non possono usare le stesse sementi. Allora, mi faccia chiedere un secondo a questo punto a Manfredini e Coldiretti. È chiaro che la replica polemica di Brazzale è c'è anche un intento autarchico da parte di associazioni rappresentanti degli imprenditori agricoli italiani nel calcare la mano su questo tema della sicurezza, dicendo solo i nostri prodotti italiani sono davvero sicuri. Lei come replica? Io replico esattamente in questa cosa qui. La produzione italiana, i prodotti agroalimentari italiani sono vanto nel mondo. Noi siamo quelli che siamo di riferimento per i formaggi, per i salumi, ma per la nostra stessa agricoltura, siamo di riferimento a tutto il mondo, tant'è che siamo per esempio imitatissimi, che è un'altra grande piaga. Quindi vuol dire ci sarà un motivo per cui questi tipi, questi prodotti qua sono imitatissimi e sono vanto nel mondo, attenzione, e quindi la conseguenza è che noi produciamo qualità, però non ci viene riconosciuto la trasparenza, basterebbe che sulle importazioni fosse indicata veramente l'origine, no? Non sto a fare degli esempi che li sappiamo tutti, cioè cagliate lituane che diventano mozzarella italiana o prosciutti che diventano cosce che diventano prosciutti italiani, quindi ci basterebbe l'indicazione dell'origine, la nostra ha una caratteristica distintiva, se noi non distinguiamo le nostre produzioni, è chiaro che la nostra agricoltura, lasciando perdere il col che non c'entra, la nostra agricoltura verrebbe più penalizzata perché si giocherebbe le sue la sua concorrenza sui mercati su regole sleali, ma allora basterebbe metterci l'informazione adeguata, la trasparenza adeguata, poi dopo sceglierà il consumatore, sceglierà il mercato. E quindi io parto da un punto di vista che noi abbiamo una produzione di qualità straordinaria ricercata in tutto il mondo e un motivo ci sarà, però bisogna cercare di distinguerla per permettere comunque alle nostre imprese di competere in maniera leale. Questa è la risposta. Allora, Brazzale, sono non sufficientemente trasparenti le norme che devono indicare al consumatore la provenienza, nel suo caso del latte per esempio? Ma guardi, si è capito anche da questa risposta di Manfredini come in realtà sia uno strumento la questione sanitaria per qualcos'altro, sia uno strumento per questioni di carattere più commerciale. Poi sono il fatto che l'Unione Europea ha delle regole che garantiscano su tutto il territorio il consumatore comporta anche che ci sono delle regole che sono quelle che noi purtroppo, noi stessi come azienda avremmo interesse venissero cambiate, cioè quella di indicare la provenienza della materia prima prevalente in un prodotto trasformato. Però questo purtroppo sappiamo non è, perché altrimenti ostacolerebbe gli scambi, la libertà all'interno dell'Unione Europea. Però devo dire una cosa, che da un certo punto di vista è un falso problema, perché tutti gli italiani possono scrivere sulle proprie confezioni il mio è un prodotto italiano con materia prima prevalente italiana o esclusiva italiana. Così come noi, nel momento in cui importiamo o lavoriamo nella nostra azienda in Moravia, scriviamo chiaramente la provenienza del prodotto, siamo liberi di farlo e lo facciamo. Perciò se tutti gli italiani scrivessero il nostro prodotto è realizzato con materia prima italiana prevalentemente o esclusivamente, il problema sarebbe già risolto. Allora, io richiamo le puntate che abbiamo fatto, cos'era, il mese scorso, ne facciamo due, una sulla di Palma e poi quando esplose la questione della quota, l'estensione della quota incentivata fiscalmente di importazione europea dell'olio tunisino, ricordate quando ci chiamarono poi gli imprenditori italiani dell'olio dicendo veramente noi abbiamo investito lì e lo utilizziamo, e in quel caso la denominazione era oli mediterranei, senza dire, ed erano imprenditori italiani a telefonarci, non li avevo cercati io, ecco. Io infatti li ringraziai dicendo avete aperto una bella finestra per far capire ai nostri ascoltatori. Allora, per carità, ogni ascoltatore si faccia la sua opinione. Io ringrazio Coldiretti innanzitutto per la loro operazione divulgativa che hanno fatto, rilanciata dalla stampa e rilanciata anche da noi su questa lista di prodotti extraeuropei non sicuri. All'interno della concorrenza europea, secondo me, gli standard ci sono, ma questa è la mia opinione, cioè io tifo Roberto Brazzale e la concorrenza, però naturalmente non voglio convincere nessuno. Intanto ringrazio Manfredini Brazzale, continuate sulla 24, appuntamento domattina alle 8:15 con me Alessandro Binelli, attenti a noi due.